24. Storie di star. Il 7 aprile del 49 Roberto Rossellini, uno dei maestri del neorealismo italiano, inizia a girare Stromboli. Protagonista l'attrice svedese Ingrid Bergman. È l'inizio di una passione unica e travolgente. La relazione tra il regista italiano e l'attrice svedese, entrambi sposati, suscita sorpresa e scalpore. Un giornale americano arriva a definire la Bergman come un apostolo della degradazione. Ma nonostante lo scandalo, Rossellini e la Bergman danno inizio a un sodalizio artistico e sentimentale che durerà 7 anni. Un legame tra due personalità fortissime, unite da una sola passione, quella per il cinema. Oggi a Mix24 il racconto di una grande storia d'amore nata sulle coste aspre di una piccola isola vulcanica al largo della Sicilia che ha scosso il mondo intero. Una storia tra cinema e realtà che ha inizio alla fine del 48 con una lettera. Caro Rossellini, ho visto i suoi film Roma città aperta e Paisà e mi sono piaciuti molto. Se ha bisogno di un'attrice svedese che parla un ottimo inglese, non ha dimenticato il tedesco, ha un francese non tanto comprensibile e in italiano sa dire soltanto ti amo, sono pronto a venire e fare un film con lei. Il 20 marzo 1949, in un'Italia ancora segnata dalle ferite della guerra, Ingrid Bergman arriva a Roma, accolta come una vera diva. Tra poco cominceranno le riprese del film Stromboli. E inizierà anche una delle più grandi campagne mediatiche del dopoguerra. La relazione tra Roberto Rossellini e l'attrice svedese diventa di dominio pubblico, appassionando i lettori di tutto il mondo. Scriverà nelle sue memorie Ingrid Bergman. In effetti non vedevo l'ora di incontrare Roberto, di ascoltare quello che aveva da dire e come lo avrebbe detto. Sempre nel 1949, Rossellini si reca a Hollywood per definire i termini del contratto per Stromboli. Il film sarà finanziato da Howard Hughes, l'eccentrico magnate che da un anno ha il controllo dell'importante casa di produzione Arc & Yo. Hughes è in cerca di nuovi progetti ed ammira la Bergman. Appoggia quindi la proposta di Rossellini, assecondando il desiderio dell'attrice di lavorare con il regista italiano. Ma oltre all'aspetto pubblico e commerciale, la storia di Stromboli ha anche un risvolto individuale e sentimentale. La passione scoppiata tra Rossellini e la Bergman, infatti, mette in crisi il matrimonio dell'attrice con Peter Lindstrom. Successivamente Rossellini scriverà a Lindstrom. Appena ci siamo incontrati abbiamo compreso che stava accadendo qualcosa di molto grande e importante. Dentro di noi sapevamo che se ne avessimo parlato saremmo rimasti legati per sempre. Mi ascolti? Mi devo aiutare. Non posso uscire, mio marito ha inchiodato la porta. Mi aiuti? Devo dire che hanno avuto tutti e due un gran bel coraggio. Si amavano e quando c'è l'amore diventa tutto meraviglioso. Era Fiorella Maraini, nipote di Roberto Rossellini. Nel film Stromboli Terra di Dio, Ingrid Bergman interpreta Karin, una giovane lituana che per sfuggire da un campo di profughi italiano sposa Antonio, un pescatore, e lo segue sull'isola di Stromboli, dove però si ritrova condannata ad un'altra duplice prigionia, quella di un'isola inospitale e di un uomo così diverso da lei. Così Renzo Rossellini, figlio del regista, giudica la Bergman. Ci sono alcuni attori che partecipano al momento creativo del film e Ingrid era una di questi. Ingrid non era una bambolina che manovravi come ti pareva. Era una che dava sempre al film qualcosa di suo, di personale, anche se non firmava la sceneggiatura, era a tutti gli effetti un'autrice. A far innamorare Ingrid e mio padre sono state le differenze tra loro, ma questo incontro tra due mondi tanto diversi ha anche regalato qualcosa di importante al cinema. Durante le riprese, Anche Ingrid Bergman ama giocare con la cinepresa. Sentiamola. Passare dal cinema americano al cinema italiano è stata sicuramente una mia scelta. Però non avevo capito che Roberto avrebbe lavorato con attori non professionisti. Ho incontrato enormi difficoltà a lavorare a quel modo, specie perché venivo da 10 anni passati a Hollywood, dove conoscevi tutte le tue battute e gli altri sapevano cosa risponderti. Con Roberto nessuno sapeva mai quando doveva parlare. E poi loro recitavano in italiano e io in inglese, tanto poi doppiavano tutto, è stata dura. In certi momenti ho persino pensato di mollare tutto. Rossellini legava dei fili sottili alle scarpe dei suoi attori e li manovrava come marionette. Quando dovevano parlare, tirava il filo e loro parlavano. Ma siccome a me il filo non lo tirava, io non sapevo mai esattamente quando entrare con la mia battuta. Insomma, è stato difficile, ma è stato anche splendido. Perché sono riuscita ad allontanarmi da tutto quello che non mi piaceva di Hollywood. Una liberazione. Certo, in Italia tutto diventava difficile rispetto alla Hollywood di quegli anni, che era come un sogno. Se volevi degli elefanti rosa, ti portavano gli elefanti rosa, o le mosche ammaestrate, e tutto. C'era un campanello, suonavi e ti dicevano... Li avrà per domani. E poi era un ambiente ricco di talenti, di gente in gamba. Lavoravi con una troupe immensa che finiva per viziarti, l'esatto contrario che in Italia, dove dovevi farti tutto da sola. Insomma, lì fare cinema era molto duro, ma era proprio quello che volevo. Con lui tutto diventava più grande del reale. La vita stessa assumeva una nuova dimensione. Diventava più appassionante. E poi sapeva darmi quel coraggio che a me mancava per carattere. Avevo sempre paura di tutto, ma lui mi diceva: di che hai paura? Non c'è niente da temere. Torniamo col racconto dell'amore tra la Bergman e Rossellini subito dopo la viabilità. Mix 24. Storie di star. Bentornati a Mix 24. Per la Bergman, donna nordica e icona di Hollywood, interpretare in un paese del sud Italia un personaggio creato da un maestro del neorealismo come Rossellini rappresenta una rottura radicale con un modo di fare cinema che in pochi anni le ha procurato fama e ricchezze. La grande diva si trova su un grande scoglio in mezzo al mare, tra spiagge scure, case bianche e gente vestita di nero. Le luci degli studios sono lontane e Stromboli, terra di Dio, è una tragedia del dopoguerra, il dramma della solitudine senza speranza. Ma che cos'è il neorealismo per Rossellini? Sentiamo quanto scrive nelle Cahiers du Cinéma del 1953 e poi la voce della figlia, Ingrid Isotta. Per me il neorealismo consiste nel seguire una persona con amore in tutte le sue scoperte, in tutta la sua evoluzione. L'uomo è un essere piccolissimo, schiacciato da qualcosa che lo domina e che a un certo punto lo colpirà in modo terribile, senza preavviso, mentre si trova liberamente nel mondo e non si aspetta nulla del genere. Quello che mi interessa è questo stato di attesa. Credo che papà avesse una fede incrollabile nel progresso, nella storia. Si vede anche nei film, anche nelle situazioni più terribili. C'è sempre una componente misteriosa, come ad esempio nel finale di Stromboli. Non si capisce bene che cosa sia, ma sembrerebbe qualcosa di più grande di noi. Non è detto che sia la religione. Una possibilità di guardare oltre la nostra piccola realtà umana. Dio mio! Le riprese del film terminano il 22 agosto del 49, ma durante la lavorazione è accaduto qualcos'altro. Il 12 dicembre dello stesso anno il quotidiano Los Angeles Examiner annuncia la notizia: Ingrid Bergman è incinta. Un nuovo colpo di scena in una storia che ormai domina i rotocalchi rosa di tutto il mondo. Ormai sapete tutto. La maternità della Bergman è la famosa notizia di cui non si hanno notizie. È il 1951. Dopo la nascita di Robertino, la coppia Bergman-Rossellini si rimette al lavoro. Fra i vari progetti un documentario, Santa Brigida, mai portato a termine, commissionato dalla Croce Rossa svedese dopo l'alluvione del Polesine per documentare la raccolta di aiuti in collaborazione con le suore dell'Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida. Dopo essersi sposati per procura in Messico, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini si uniscono in matrimonio in una piccola chiesa. Di lì a qualche tempo la coppia si stabilisce a Roma, la città natale del regista. È qui che il padre di Rossellini ha costruito uno storico cinema, il primo della capitale, a Piazza Barberini, a due passi da Via Veneto e dalla grande casa in cui il regista è cresciuto tra i vigneti e il ridosso delle antiche mura della città. Proprio in quel quartiere borghese, a luglio del 1952, Rossellini e la Bergman iniziano le riprese di Europa 51. Così il regista, in un'intervista del 1962, racconta come gli è venuta in mente l'idea del film. L'idea mi è venuta mentre giravo Francesco Giullare di Dio. Mi sono chiesto se Francesco d'Assisi, un altro santo, oggi tornasse sulla Terra, come verrebbe trattato? Sicuramente verrebbe considerato un pazzo. Ma ovviamente nel film c'è anche dell'altro, ossia il tentativo di mettere in risalto i problemi che agitavano l'Europa in quel momento. Per il personaggio di Irene, Rossellini si ispira alla vita di Simone Weil, la filosofa francese che rinuncia a fare l'insegnante e lavora come operaia. In Europa 51, la Bergman interpreta il ruolo di una donna dell'alta borghesia romana, che in seguito ad una tragedia che la colpisce, la morte del figlio dodicenne, abbandona una vita agiata e, con grande umiltà, rivoluziona la sua esistenza. Così Renzo Rossellini, figlio di Roberto. Nel film, Ingrid impersona una donna che vive un lutto. Un lungo lutto per la morte del figlio. Non sono in molti ad aver affrontato il tema del lutto in un film, soprattutto con questa profondità. Mio padre non era un credente. Diceva, purtroppo non ci riesco. E provava parecchia invidia per chi credeva. Lui questa fede non l'aveva. Nel 1946, durante le riprese, subito dopo le riprese di Paisà, mio fratello maggiore morì. Per mio padre fu un colpo terribile che gli cambiò completamente la vita. Ha dovuto vivere il lutto per la morte di mio fratello e forse è per questo che si parla del lutto in alcuni suoi film. Quell'evento ha anche trasformato il suo modo di fare cinema. Si è trovato ad affrontare qualcosa di più grande di lui, il mistero della morte. E quindi ha cominciato a girare film dai quali si vedeva, si percepiva una componente di spiritualità. Tra regista e protagonista, da anni uniti nella vita come nel lavoro, c'è una profonda complicità. Nel dirigere i suoi film, Rossellini si concede spesso la libertà di modificare il racconto, improvvisando a seconda delle situazioni e dei luoghi. Sento il ritmo del film a orecchio, ed è forse ciò che mi rende oscuro, cupo. So quanto sia importante un'attesa per arrivare a un determinato punto. Allora non descrivo il punto, ma l'attesa, e arrivo di colpo alla conclusione. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Mix 24. Storie di star. 18 giugno del 52, dall'amore tra la bellissima attrice svedese Ingrid Bergman e il regista Roberto Rossellini, nascono le gemelle Ingrid e Isabella. La Bergman è una madre felice, la rottura con l'ex marito è ormai definitiva. Lei e Rossellini non sono mai stati così uniti. Ingrid, come sempre, anche stavolta è stata bravissima. Due bambine per non creare disuguaglianze. L'8 maggio 1953 la famiglia si trasferisce nel nuovo appartamento di Viale Bruno Buozzi 62 a Roma. In dicembre Rossellini si rimette al lavoro questa volta a teatro, con Giovanna d'Arco al rogo. Un'opera musicale con il libretto di Paul Claudel e la musica di Arthur Honegger. Al San Carlo di Napoli è un trionfo. E nel 1954 il regista realizzerà un film basato sullo stesso soggetto dell'opera teatrale. Così Fiorella Maraini, nipote di Roberto Rossellini. Mi ricordo che quando doveva provare le battute per Giovanna d'Arco al rogo, io leggevo la parte di Padre Domenico, mi pare, comunque del personaggio che parla con lei. Io comincio e leggo le mie battute. E certo, non mi sono messa a interpretare, io leggo. Giovanna. E lei, chi mi chiama? Chi ha detto Giovanna? Mi è preso un colpo. Si era già calata interamente nella parte, stava già recitando. Era già Giovanna sul rogo, una cosa straordinaria. Mi resi conto che bastava premere un pulsante e lei cominciava a recitare. Lei andava molto fiera di questa sua capacità e i risultati, d'altronde, erano formidabili, senza alcun intellettualismo. Niente a che vedere con l'Actor Studio. Ingrid era un'attrice nata. Tutto qui. Passavamo le vacanze insieme, fratelli e sorelle. Eravamo una famiglia molto unita. Ho ancora un ricordo straordinario di quelle vacanze tutti insieme. Anche i miei fratelli e sorelle le ricordano con immensa nostalgia. La nostalgia del passato. Dunque una famiglia molto unita, come ricorda Renzo Rossellini, e tutto sembra andare per il meglio. Ma il 53 è un anno di svolta. Rossellini inizia a girare Viaggio in Italia, la storia di una coppia in crisi che è costretta a un ultimo viaggio insieme. Anche se la storia si concluderà bene, per la prima volta al centro del racconto c'è la morte di un sentimento all'interno di una coppia. ...1953... Rossellini gira Viaggio in Italia, tra la villa di Torre del Greco e ad Amalfi. La famiglia si stabilisce in prossimità della zona delle riprese. Il regista desidera mostrare alla moglie e ai suoi figli i luoghi magici e mitici del Mediterraneo, e soprattutto Napoli, dove lui dice si respira quella strana atmosfera in cui si trova mescolato un sentimento molto reale, molto immediato e profondo, il sentimento della vita eterna. Nella trama, una coppia inglese in crisi giunge a Napoli per un'eredità. Durante una processione i due stanno per perdersi e improvvisamente riscoprono l'amore. Come poteva far fortuna all'estero, si voglia campa qua. Mettite un frisco vino, tanta ne voglia vedere, come già imbriaca, rintasti quattro muri e so contente. Mamma ma sta vicina e me ne canta. Chi sta a Bergman Rossellini gira Viaggio in Italia. Nella finzione Alex e Catherine sono due persone che non hanno più nulla da dirsi, una coppia della middle class inglese ormai in crisi. Quando arrivano a Napoli sono solo due strane in attesa di prendere la decisione di lasciarsi. Durante il viaggio, marito e moglie reagiscono in maniera differente, sia agli eventi, sia al paesaggio che li circonda. Visitano gli scavi di Pompei, ma la potenza della natura, la bellezza delle opere, la violenza con cui tutto è espresso, non basta a riempire il vuoto che c'è tra loro. La morte di un sentimento all'interno di una coppia diventa il nucleo centrale del racconto. Così il critico cinematografico Padre Fantuzzi e poi Renzo Rossellini, figlio di Roberto. Non ho mai parlato direttamente con Roberto Rossellini della vita eterna. Direi che era lui che me ne parlava, non con le parole, ma con i suoi film. Verso la fine della sua vita, Rossellini detestava i poeti e infatti diceva che i poeti avevano rovinato il mondo. Se gli avessi detto che i suoi film erano pieni di poesia, sarebbe stato davvero capace di darmi un pugno in faccia, perché lui odiava parlare di queste cose. Non gli piaceva la parola artista. Rossellini si definiva un artigiano che fabbrica immagini. Cercava di fare qualcosa di utile, come uno che costruisce una sedia per sedersi. Lui non amava né il termine poesia né il termine film d'arte. Io invece penso che sia stato un grande artista. Gli artisti non si esprimono chiamando le cose col loro vero nome. Il cinema di Roberto Rossellini, secondo me, è ricco di metafore e parla continuamente di qualcosa che non è così concreto o materiale come sembra, ma al contrario, è un cinema spirituale e si svolge in una dimensione di eternità. Due persone, così come erano al momento della morte. Un uomo e una donna. Un uomo e una donna. Forse marito e moglie hanno trovato la morte insieme, uniti. Cos'ha la signora Joyce? Non so. Posso fare qualcosa? No, vado io, lasci. Lavorava molto sui film. C'è il luogo comune che non scrivesse la sceneggiatura, che improvvisasse. Dopo la sua morte ho cominciato a raccogliere tutto quello che aveva scritto e nell'archivio che ho messo insieme ci sono 16.000 pagine manoscritte. Per ogni film studiava molto, lavorava molto, leggeva molto e scriveva molto. Vuoi visitare ancora qualcosa, dato che siamo qui? No. E non c'è nulla che rievochi vecchie memorie? Ma smettila, perché seguiti su questo tono? Finiscila. Sono stanca del tuo sarcasmo. Abbiamo deciso di divorziare e basta. Ma è possibile riconciliarsi in nome dell'amore? La coppia di inglesi di viaggio in Italia, a contatto con il Sud, ritrova una speranza di comprensione reciproca. Alex! Alex! Alex! Alex! Alex! Oh, Alex, non voglio perderti! Il film, uscito in Italia il 7 settembre 1954, viene stroncato dalla critica. Europa 51 e Viaggio in Italia non hanno il successo sperato. La delusione per l'accoglienza degli ultimi film da un lato e il logoramento di un rapporto in cui set e vita reale tendono a mescolarsi dall'altro hanno creato i presupposti di una frattura insanabile. Per Roberto Rossellini e Ingrid Bergman arriva il tempo della crisi. Sentiamo la voce dello stesso Rossellini in un'intervista del 62. Il figlio Renzo Rossellini e poi la stessa Bergman. Viaggio in Italia è un film che mi ha dato molti dispiaceri, devo dire. Appena è uscito l'hanno subito mutilato, stravolto, hanno cambiato il titolo, hanno cercato di farlo diventare un film commerciale, ma non ci sono riusciti, malgrado tutti i loro sforzi. Le critiche negative al film lo ferirono parecchio. Non che se ne facesse una malattia, però un po' ci stava male. Ricordo che me ne parlò, perché in casa leggevamo i giornali e quindi sapevamo degli insulti e degli attacchi contro di lui. Ci teneva a difendersi. Ci spiegava perché certa gente fosse così stupida e non capisse quello che lui stava facendo. Lo ha mai visto scoraggiato qualche volta? Sì, ovviamente sì, spesso. Perché abbiamo avuto tutti contro per anni. Era difficile lavorare, era difficile vivere in quel clima. Ma lui aveva abbastanza esperienza da sapere che in futuro avrebbero apprezzato le cose che abbiamo fatto insieme, solo che adesso è un po' tardi. Novembre 1954. In Germania federale, prima che in Italia, esce il film Angst, ovvero La paura, dal racconto omonimo di Stefan Zweig. Nel film, Irene ha un amante. Accortasi che il marito l'ha fatta spiare e ha scoperto il tradimento, decide di uccidersi. Ma sarà il marito stesso a salvarla. Il film ha scarso successo e il distributore lo ritira dal circuito per farne una versione molto più breve e modificata, che uscirà nel 1958 con il titolo «La paura, non credo più all'amore». Per Rossellini e la Bergman è l'ultimo film insieme. La loro storia è alla fine. In 7 anni di vita in comune hanno fatto 5 film, ma ora Ingrid Bergman va a Parigi per girare un film con Jean Renoir e Roberto Rossellini prepara il suo nuovo film in India. È la fine di un viaggio a due, di un sodalizio umano e artistico che ha lasciato una traccia profonda in un cinema che hanno saputo inventare insieme. Così i figli Isotta Ingrid Bergman e Renzo Rossellini. Così, oggi s'avvera il sogno e siamo. Sono rimasti sempre ottimi amici, e questo è importante. Si amavano veramente molto. Papà provava un'enorme tenerezza per mamma. Così ci sembra persino i fiori. Diceva che l'unico mestiere che ha sempre cercato in tutti i modi di imparare è il mestiere dell'uomo. Thank you.